vedi il sole nascere, il tempo dell'amore finisce tra mille ansie che ci divorano. So di amarti. Dolce libertà dai seni grandi, se piangi di notte sotto la luna, lo sai, sei la mia unica ragione di vita. Che suoni ha il mattino e la melodia di una vita che nasce, si sveglia e parla di noi, parla di una storia vecchia nel tempo e nell'immenso, immenso sopra di noi. Continueremo a pensarti. Ma noi continueremo ancora a pensarti, mia dolce libertà dei seni grandi. Se pensi che tutto sia oramai finito, svegliati, è già mattino, è già mattino. Svegliati, è già mattino, è già mattino.